Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari amici, buonasera. Questa è una serata speciale nella quale ascolteremo svariate canzoni di generi differenti, ma tutte correlate tra di loro. Oddio, cosa Antonio, cosa è successo qua? Non so se c'è qualcuno che mi pare ci sia un'interferenza qualcosa chi, di questo chi è tipo. Che ci ha rubato la trasmissione? Aspetta, forse ho capito, è ad essere il nostro ospite. Ah sì? Oh, adesso mi viene in mente, ma sono proprio una smemorata. Bene, intanto salutiamo i nostri ascoltatori. A voi tutti un affettuoso saluto, come sempre, da Gesi e Antonio, quale vi dà un cordiale benvenuto. Da un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che speriamo vogliano accompagnarci ancora numerosi in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro sito internet è bluradioveneto.it e abbiamo anche la possibilità di ascolto in streaming oppure di effettuare il download della trasmissione alla posizione podcast. Non possiamo naturalmente dimenticare un saluto al nostro regista Eddie e al nostro coordinatore. Antonio caro, io sera mi commuovo, per cui che siamo particolarmente emozionati di avere con noi in carne ed ossa un'icona della cultura pop, non solo musicale, Mr. Bobby Solo. Buonasera, buonasera. Uncle Bobby, buonasera. Chissà se gli ascoltatori l'hanno conosciuto, ma non credo non credo. Con questo cambio di stagione sono leggermente un po' afono, diciamo che è inconfondibile comunque la voce, la tranquilla. Il nostro Bobby fa piacere stare con voi, ci ha fatto l'onore di venire qua. Grande, è una cosa addirittura... Io sono onorato, io è una bella radio, una bella trasmissione, saluto tutti coloro che stanno all'apparecchio. Ma io ti ringrazio anche di aver accettato l'invito, perché non è da tutti accettare l'invito. Assolutamente. Io quindi... ho piacere di stare con voi. Allora, cosa dici che facciamo ascoltare una delle tue canzoni, delle tue incisioni? Volentieri. Che è del 1900, è stata composta nel 66 in dicembre, sì, e poi è stata pubblicata nel 67, ed è una canzone che piace molto ad Antonio. Allora, non c'è più niente da fare. Ok. Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, il nostro amore sincero, dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, il Bobby Solo nazionale, internazionale, come possiamo chiamarlo? Quando vado all'estero internazionale. Sì. Beh, noi abbiamo anche degli altri ospiti silenziosi. Allora abbiamo la signora Tracy, che è la moglie del nostro Bobby, sì, col suo bambino Ryan, che è simpaticissimo, bellissimo. Sì. Poi abbiamo i coniugi De Martin, La signora e il signor Verdurin, vero Antonio? Il clan Verdurin in carne ed ossa. In carne ed ossa. Sì. E poi abbiamo la signora Donatella, che è un'amica di tutti noi. Bene, allora, caro Bobby, noi così desidereremmo sapere un pochino così dalla tua vita, dalla tua carriera. Allora, so che sei di famiglia proveniente dal nord-est Italia, la sì. madre è giuliana ed il padre friulano. Sin dall'adolescenza si interessa di musica e in particolare di rock and roll, diventando un fan di Elvis Presley, artista a cui si ispira nello stile e nel modo di cantare. È vero? È verissimo. Ho conosciuto Elvis per caso vedendo un film, Il delinquente del rock and roll. Sono tornato a casa, avevo penso 16 anni. E ho fatto delle mosse alla Elvis davanti allo specchio e mia madre in triestino ha detto: "Piccio mio, te ha la febbre, te senti male?" E io ho detto: "No, ma voglio diventare un cantante come Elvis Presley che si muove così." E allora, e dopo, come Alberto Sordi, ho detto: "C'ho un po' di fame, fammi due spaghetti aioli." Sì, diciamo che no, è curiosa la cosa, un personaggio che ha cominciato con il rock e che è diventato un'icona nazional popolare praticamente. È la cosa più bella, perché essere vicini alla gente è il compito di comunicare con la gente, quindi la definizione nazional popolare fece un po' arrabbiare Pippo Baudo. Esatto, invece io la considero una medaglia d'oro. Decisamente. Allora, il nostro Bobby impara a suonare la chitarra e compone le prime canzoni all'inizio degli anni 60. Il padre, che lavora per l'Alitalia, viene trasferito da Fiumicino a Linate e la famiglia si sposta con lui a Milano. Qui Roberto, perché il nostro Bobby solo si chiamerebbe l'anagrafe Roberto Satti, ecco, viene ascoltato mentre canta da Vincenzo Micocci. Ecco, è vero, sì, tutte queste cose. È vero, però mio padre, sai perché si è fatto trasferire? Perché io avevo formato a Roma il mio primo gruppo rock. E lui ha detto, siccome lui amava solo Beethoven e Wagner, lui si è fatto trasferire apposta perché io abbandonassi il mio gruppo. E invece, quando sono arrivato a Milano, in giro di 3 mesi, ho riformato una band di cui il batterista era niente poco di meno che Franz Di Cioccio, il batterista della PFM. Era il mio batterista. Noi suonavamo nei club del UDI, Unione Donne Italiane, e nelle cantine. Sì? Per 1.000 lire in tre. Oppure nelle sedi del Partito Socialista a Milano, e ci davano questi soldi. Avevamo degli strumenti molto poveri, però già facevamo rock and roll, a dispetto del povero papà mio che sperava di infrangere il mio sogno. Sì. E allora tu canti davanti a Vincenzo Micocci, che ti propone un contratto per la Dischi Ricordi, e lo fa debuttare, e ti fa debuttare con il primo 45 giri contenente Ora che sei già una donna e Valeria. Perdonami se ti preciso che il dottor Micocci, mio scopritore e un papà musicale, mi disse questa frase esatta, dice: "Ma lei lo farebbe un contratto?" E io dissi: "Non sapevo niente di business." "Ma sì, ma io ho 5.000 lire al mese." Lui disse: "No, ma i soldi eventualmente te li daremo noi a te se venderai i dischi." E mi fa: "Ti va bene il 2%? Io, per incoraggiarlo, dissi: "Facciamo l'1. E lui mi disse: "No, dopo il 2, più basso del 2, ci arrestano per corruzione di minore." Perché era pochissimo. Ma io volevo cantare, non pensavo ai soldi. Quindi avrei cantato pure gratis. La beata ingenuità. Sì. Beh, diciamo che sei partito alla grande. Dischi Ricordi, chapeau, Sì, la Ricordi. Sei entrato dalla porta principale. Insomma. Io avrei preferito l'RCA perché era la casa di Elvis. Ma solo per motivi affettivi. Io ero fissato per Elvis, però indubbiamente la Ricordi aveva un tocco di intellettualità. Quindi esatto. Iannacci, Tenco, Paoli, cioè era molto più chic, era un po' più boutique, l'RCA era un po' più supermercato, però aveva anche lei i suoi bei cantautori dell'RCA. Ma mi piaceva il marchio RCA, Radio Corporation of America. Questo mi piaceva. Allora, ti hanno fatto il primo contratto con la Dischi Ricordi, sì. E quindi tu ti proponi di chiamarti Bobby, senza indicare il cognome, non so, raccontaci un po'. Non è così, no? Preciso tutto. Allora, Andavano di moda i nomi Johnny Dorelli, Little Tony, Tony del Monaco, eccetera. Quindi Urenis. Roberto Satti era troppo italiano, bisognava americanizzarlo. Quindi il dottor Micocci disse alla segretaria Bobby, e lei disse sì, Bobby, e dopo cosa? E lui disse solo Bobby, cioè solamente Bobby, sì. Bobby e basta. E lei poverina non ha capito e ha scritto Bobby solo. Lei era una ex cantante, sta segretaria, aveva 23 anni, aveva già deciso di non cantare, si chiamava Stelvia Ciani, sì. Ed era triestina anche lei. Ah, e la chitarra con cui io ho fatto il provino era una chitarra abbandonata lì, mezza scordata, ma si vede che dottor Micocci ha trovato qualcosa in me. Logicamente. Vuoi che ci fermiamo per una canzone? Sì, direi che possiamo fare una seconda canzone. Mi farebbe piacere fare ascoltare una canzone veronese, perché io ho vissuto 5 anni a Verona. Ah. E lì c'è una Vespa, bisogna spiegarlo per gli amici che ci ascoltano, un tipo di Vespa bianco e nero, juventino, pericolosa, che può fare veramente male col morso, si chiama El Matosin. E io ho creato una canzone su questa Vespa. Ah, benissimo, allora noi l'ascoltiamo molto volentieri. Bon. Alto là, adesso arriva il mattoncino. Mattoncino, mattoncino, e te becca sul copin. Oh madonna piccinin, la becca anche a me cousin. Se te becca il mattoncino, butta giù in pressione un par di gotti de vin. Mattosin, mattosin, moro come un carboncin, brutto come un porco spin, orso come un vecchio alpin. Mattosin, mattosin, mescola in pressione un par di gotti di vin. Meno una sede se anni, era bella da portarti servei. Meno non sapeva cosa inventar par semenar sofradei. Fortuna gavole sto che sta prespa la ia ponti sui diei. Mattosin, mattosin, moro come un carboncin, brutto come un porco spin, orso come un vecchio alpin. Mattosin, mattosin, scolo in pressione par di cocchi de vin. Nemo! Me mamma l'ha detto che anche al parroco l'ha visto la stria. Se c'è falso bel becco su una ganassa, amen, e così sia. E le croso sto disgrazia fra un par de moneghe e un'ave maria. Yeah! Mattosin, mattosin, e te becca sul copin. Uomo dono piccinin, la becca anche a me cousin. Se te becca il mattosin, buttazzo in pressione un par di gotti de vin. Sta bestia nera la te portella, te corre drio come un motorin. Quando la sento scappo in casa, che non la me venga massa vicin. Perché lo so, se la me becca mi me salva solo i gotti de vin. Yeah, mattonsin, mattonsin. Eccoci di nuovo in studio. Caro Bobby, tu incominci la tua carriera sanremese nel 1964. Esatto. E partecipi al Festival di Sanremo cantando in coppia con Frankie Lane. Sì. E canti Una lacrima sul viso, che esatto, ha avuto un grandissimo successo. Ci racconti un pochino? Allora, la cosa comica è che io volevo cantare, ma l'emozione, il fatto che Little Tony con la sua generosità mi aveva portato prima al ristorante la sera prima del festival e poi al night club il Capo Nero, sudando, ballando, eccetera, io mi sono trovato senza voce. E Frankie Lane, come tutti gli americani, aveva i denti incapsulati. E alle 5 di pomeriggio ha morso una mela e che era troppo dura, e i denti, le capsule che sono rimaste nella mela. Quindi Bobbisolo senza voce e tonsille d'acciaio era chiamato, esatto, senza denti. Alla fine alle 7 un dentista gli ha avvitato due capsule e a me hanno optato per farmi cantare in playback. Sì, ma data l'emozione, data la scarsa potenza, perché avevo un peso di 61 kg, che poi con l'emozione sarò arrivato a 59, questo playback è stato provvidenziale, perché ha dato a me una possibilità di far sentire la mia voce al meglio delle, con tutti gli accorgimenti tecnici. Esatto. Certo, se la voce non ce l'hai, neanche in sala di incisione può venire fuori. Ah, beh, però certo, è chiaro che la mette in evidenza maggiormente la sala, quindi è stato una sfortuna fortunata. Comunque la canzone è il testo di Mogol, però la musica è tua. La musica è mia, sì. E me l'ha scelta perché dopo tre dischi fatti per la Ricordi non vendevo neanche una copia, né Cristina, né Ora che sei già una donna, né Valeria, e tutti questi dischi non vendevano, perché il papà di Mogol, che sembrava Gatto Silvestro, aveva due occhi medio orientali, due baffoni grigi, papà Mariano Rapetti mi disse, sì, sì, disse ma tu hai una canzone, qualcosa che proviamo? E io avevo questa canzone, però il testo diceva forse dietro quella duna quando spunterà la luna, perché non era un grande poeta, e lui disse il testo fa schifo, la musica mi piace, il testo lo farà mio figlio Mogol. Ah. E Mogol è arrivato all'appuntamento e si era dimenticato di fare il testo. Quindi nei 15 minuti che siamo andati in sala d'incisione per fare il provino per Sanremo, il genio di Giulio Rapetti ha permesso che è nata questa canzone in macchina tra Piazza Duomo e Piazzale Corvetto a Milano. Però non hai potuto... Scusatemi Antonio. No, dico, queste sono aneddoti che ti fanno lasciare a bocca aperta. Lo rivedo ancora, Mogol uscire, io pensavo da un Jaguar, da un Ferrari, uscire da una Renault, quelle col cambio a mano, a pompa, color grigio un po' arrugginita, targata a Como, perché il papà aveva una casa a Como. E vedi questo uomo uscire da sta macchina tutta arrugginita, e questo qua è un genio, Giulio Rapetti è un genio. È un grande Mogol. Ma non sapevo che il padre fosse coinvolto. Mariano Rapetti era il direttore delle edizioni Ricordi. Ah, ecco. A Galleria del Corso numero 2. Galleria del Corso. Dove io vidi i primi passi di Battisti, che componeva insieme a lui Balla Linda. La storia della canzone italiana. L'ho visti, era Mogol lì, e Battisti qua, e quello con la chitarra, e l'altro diceva allunga le due strofe, e devo mettere in altre parole, e così. Comunque non hai potuto pubblicarla perché non eri iscritto alla SIAE. No, diciamo che è un po' diverso. Loro mi hanno un po', non dico raggirato, ma in poche parole non mi hanno fatto firmare a me, che la canzone era mia, e l'ha firmata il loro direttore artistico. Lunero, che per 40 anni non mi ha mai dato una lira. Però dopo nel 92, grazie a Red Ronnie, io ho chiesto di aiutarmi, loro hanno chiamato Pataccini, che ormai era di una certa età in Brasile ed era ormai in guai economici, e lui è tornato e mi ha restituito la paternità. Era figlio di Tienno. Pataccini, che era uno che aveva una grande orchestra di Liscio, però un grande musicista. Mi avrà rubato la lacrima, però era un bravo compositore. Sì, per quello è un bravo musicista. È meraviglioso. E allora qui comincia la tua carriera a Sanremo, però non hai vinto. No, non ho vinto perché ero in playback. Ecco, però ho venduto quasi 11 milioni di copie nel mondo, 2 milioni in Italia, 2 milioni e mezzo in Francia, 1 milione e mezzo in Germania. Ricordo anche 70-80 mila in Libano, 300 mila in Israele, 1 milione in Brasile. Un successo internazionale. Mi dettero disco d'oro dal Brasile. Sì, difatti, un premio. Il disco d'oro che te l'ha consegnato Laura Efriken. Eh sì. Ecco, quindi difatti. Ma deve essere veramente una cosa che ti gratifica. Ma sai, quando sei timido come ero io e insicuro, io vivevo tutto questo come un'avventura molto terrorizzante, perché ero molto timido. Io non avevo fatto gavetta non avevo fatto un po' di preparazione. Io mi sono trovato dai banchi del secondo liceo classico, catapultato, mi sono trovato sul palcoscenico. Quindi l'ho vissuta un po', mi è scivolata dietro le spalle. Diciamo che quando io sento dire com'era bello quando eravamo giovani, invece io dico com'è bello adesso, che sono il padrone di me stesso, decido io della mia vita, nel bene e nel male, e non sono nelle mani di impresari o di persone che mi manipolano come un pupazzo. Concordo pienamente. Quindi io sono molto felice, certo, di non essere giovane. Molto contento, non vorrei ritornare, perché non è stato bello essere manipolato. Sì, è vero, in un modo o nell'altro tante volte si è manipolati. Vorrei ritornare giovane semplicemente per potermi alzare la mattina in un minuto invece che in un'ora. Quello che sono un po' più stanco, non importa, un po' più di lentezza, è la saggezza dell'età, ma, che prende sopravvento, ma io sono in perfetto controllo di tutto il mio lavoro, serate, spettacoli, eventuali dischi, eccetera, e quindi è un periodo bellissimo per me. Comunque la tua versione ha superato quella di Frankie Lane? Devo dire che immeritatamente, perché io ero un pivello, ero un novellino, avrò avuto delle doti sicuramente, e un po' mi ha aiutato anche il Signore, io penso, perché con la mia timidezza, la mia insicurezza, penso che c'è stato un intervento dall'alto. Però Frankie Lane era uno che aveva venduto 400 milioni di dischi, esatto. Era un crooner, Jezebel, sì. Anche aveva fatto i più grandi film, Ombre Rosse, La Voce, sì. Cioè un vero maestro del palcoscenico, solamente che io avevo 20 anni, lui era già nei suoi 50, che poi mi stupì perché gli americani artisti, quando avevano i capelli grigi o bianchi, li velavano di blu. E io penso un po', non sapevo queste cose in Italia. E poi non era che avessero delle tendenze femminili, ma le unghie, gli artisti le avevano laccate e trasparenti. Io vidi le unghie laccate, poi vidi i capelli blu. Ma questo è un alieno. Io non sapevo di queste cose. Comunque anche stato... Sinatra aveva velati anche di blu. Lui era più chic avere il capello bianco, esatto, con la sfumatura. Oltre ad avere i blue eyes, perché blue infatti eyes, lo chiamavano, esatto, all blue eyes. Poi è forte, volevo ricordare di Frankie Lane, perché 4-5 anni fa mi è venuta una botta di nostalgia e l'ho chiamato. Lui aveva già circa 85 anni. Sì. E allora la badante lì a San Diego mi fa one minute. E sono passati 20 minuti prima che arrivavo. E poi io lo aggredisco, dico: Frank, ciao, allora ho fatto questo, ho fatto la televisione, sono andato da Carlo Conti, ho inciso un disco, ho fatto 40 serate. E lui a una pausa mi fa: sì, ma a parte questo cosa fai? E più di quello che ti ho detto cosa posso fare? Comunque questo, simpaticone, questo disco è stato tradotto, è stato fatto un album, no? Sì. E poi è stato tradotto in molte lingue. Sì, sì, esatto. In tedesco, Eine Träne unter Tausend, sì. In francese, Certain Visage in Alarme. Mm-hmm. E poi, credo in... Esatto. E poi c'è una cosa importante, il musicarello. Ah beh, sì, i tanto vituperati musicarelli, film, io credo, diciamo, di essere stato il bellissimi. Pioniere, il primo, ecco, dopo sono, ecco, venuti, ecco, il primo musicarello è stato fatto nel 1951. Ah, allora non sono il primo io. Con Claudio Villa, con Canzone di Primavera, ecco, allora io non sono il primo, però di quelli della mia generation, sì, sei stato sicuramente, penso che primo. La lacrima è, sì, stata, sì, sì, esatto, ricordo, esatto, che quando il segretario Romano Di Casimiro, che poi era diventato il segretario di Morandi, mi ha portato sull'autostrada Roma-Napoli, c'erano al massimo 3 macchine, per dire quanto poco traffico c'era. 3 macchine. Assolutamente. Continuiamo a parlare di Sanremo. Solo perché, nel 65 hai vinto a Sanremo. Sì. Con Se piangi, se ridi. Esatto. Anche lì un'altra storia, perché io ero talmente imbambolato e non pensavo di vincere, quindi appena ho cantato mi sono svestito, struccato e sono andato a mangiare al ristorante durante la trasmissione. Sono venuti quelli della Rai al ristorante di Sanremo, il Gambero Rosso, mi hanno detto: ma tu sei matto, stanno aspettando per la premiazione. Un'altra follia. E un altro particolare, se posso, sì, approfittare, sì, di parlare. Bene, sì. Tranquillo. Certo, le mie partner erano 11, erano i New Christy Minstrel. Sì. Ah, sì. Dentro questi New Christy Minstrel c'erano due che diventarono due superstar. Una allora aveva il caschetto color rosso mogano ed era Kim Carn. quella che cantò Wire, esatto. E gli altri, Bette Davis Eyes, yes. E poi c'era il grande cantante country con i capelli castani e non bianchi, Kenny Roger. Kenny Roger, sì, era nei New Christy, là saremo con me. Ma straordinario. Però ritornando all'anno precedente, tu sei stato anche al Festival Bar, e del quale io ricordo Vittorio Salvetti. Certo. Il patron, buon'anima, certo. Grande organizzatore, grandissimo, musicale. Grandissimo uomo e simpaticissimo. Con Credi a me, se non sì. Credi male. A me, ripenserai. Sì, sì, sì, ma ricordo bene. È proprio questo. Però con la lacrima sul viso, appunto, hai recitato con Nino Taranto e Laura Efriken. Ah beh, ho fatto questo film che è stato divertentissimo perché, sempre timido io, abbiamo girato, l'hanno girato il film dalla fine verso l'inizio. Quindi siccome io nel mese e mezzo avevo preso coraggio, io parto disinvoltissimo perché era stato sì. Girato alla fine e finisco imbranato. Ah. Perché è stato girato all'inizio, in bianco e nero, con una cinepresa che era alta 2,5 metri, una vecchia Mitchell. Ci avranno fatto i film a ombre rosse. Straordinario. Comunque poi si va avanti ancora, ne hai fatto tantissimi, ne hai fatti 12 mi pare festival. Non li ho contati. Mi pare proprio di sì. Non vorrei allargarmi, mi sembravano 14. Hai perso proprio il conto. Ma mi pare, beh, insomma, comunque... Però saranno 12, se tu sei molto più brava no, di no, me. No, io comunque perché io non mi ricordo tanto di quello che ho fatto. Hai vinto anche nel 69 con la Iva Zanicchi. Quella sì. È stata una bellissima esperienza. Vabbè. Sì. E poi dopo vai nell'80, 81 e l'ultimo cos'è stato? Nell'84? Mi sembra di sì, con Ancora ti vorrei, una canzone un po' dance che non è stata molto non ha avuto vero? successo. Va bene, allora adesso noi ci fermiamo per una canzone che a me piace molto. Sì? Ecco, Amore mi manchi. All right. Le rose già fiorivano, l'inverno era pallido e se ne andò. Quel giorno io mi ricordo che volevo ancora bene a te, ma ti lasciai. Dapprima non sapevi più se vivere o morire, ma dopo un po' tornasti ancora a vivere, perché nessuno è un angelo come sei tu. La nostra casa è piccola, ma la tenevi in ordine solo per me. Vivevi sola e triste, ma avevi una speranza dentro di te. E i mesi ormai passavano e diventavi pallida sempre di più. Finché un giorno limpido trovasti una lettera scritta da me. Amore, mi manchi, ma non tornerò. Amore, mi manchi, aspetta se vuoi. Un giorno di dicembre ormai non mi pensavi più quando tornai. Ti vidi intorno all'albero e sorridesti subito vedendo me. Bastava una parola che saresti ritornata in braccio a me. Ma la mattina dopo ti dissi questa frase, poi me ne andai. Amore, mi manchi, ma più non tornerò. Non aspettarmi più. Allora rientriamo in studio con il nostro ospite, al quale chiediamo, naturalmente vista la sua lunghissima militanza, del suo primo impatto con l'estero. La prima impatto, a parte tutta l'Europa ovviamente, dove ci sono italiani, ma l'impatto con l'America fu fortissimo. Arrivai a New York e conobbi questi quattro impresari che mi gestivano. Uno si chiamava Santino Forzano, era di Barcellona, vicino Catania, vicino Messina. Messina, sì, esatto. Santino Forzano. L'altro si chiamava Joe Capri ed era un ex pugile con tutti i denti di metallo, 1,82 m, la faccia tipo Klaus Kinski. Oh, yeah. Quello che li contraddistingueva, tutti col cappotto di cashmere, come il padrino, il cappotto di cashmere col collo di velluto. Pure. Poi l'altro era Joe Valente e poi c'era Tommaso Salomone, che aveva un programma, una local radio alla New York, che si chiamava il programma A Passeggio per il Bronx. Oh. E poi l'ultimo, rassicurante, per dire. E poi l'ultimo, che invece è diventato un attore, Pat Caiano, che aveva tutti i capelli imbrillantati e ha fatto molte parti nei film dei Soprano, quei bravi ragazzi, Joe Pesci. Esatto. Mi piaceva la loro lingua, che era mezza italiana e mezza siciliana. Broccolino. Yes. E mi dicevano, loro non sapevano che anche da noi c'era la civiltà, mi facevano: ma voi all'Italia ce l'avete un TV box? La televisione. TV, sì, box. Ma voi all'Italia ce l'avete un frigidaire? Sì, ce l'avevamo la frigidaire. Cioè, pensavano che erano, che fossimo dei selvaggi. Che fossimo. E poi loro chiamavano la macchina the car, u carro. Il carro, sì, il carro. E invece il camion, truck, lo chiamavano trocco. Ah. Se era un piccolo camion, trocchettino. Per dire, ti faccio un assegno di $500, ti caccio una cecca di 500 pezzi. Perché si dice check in inglese, cecca. Quindi, e il dolce, la checca, che sarebbe cake. Ah, il cake, la cake. Sì. La checca, esatto. Ti vuoi mangiare una poca di cake? E poi forte, perché sull'aereo, quando tornavano, che andavano in vacanza in Italia, loro parlavano un bellissimo inglese per un po', tipo all right John, poi Pasquale piglia la valigia. Adesso non è più così, perché questa emigrazione è più, sono quelli ormai della valigia col sono diventati americani, non hanno queste non hanno più intercalanze geografiche molisane. Ma sono particolarmente divertenti. È stato bellissimo. Dire. La signora, una nostra ospite qui, che è seduta, vorrebbe sapere per quanto tempo ti è durata la timidezza? La timidezza fino quasi agli anni 80, perché la timidezza poi era un disagio, no, non mi sono mai sentito a mio agio davanti alle telecamere, e adesso invece mi sento molto a mio agio davanti alle telecamere e davanti ai microfoni. Sarebbe stato meglio farlo prima, quel senso di confidenza con i giornalisti, con gli intervistatori, è venuto solo così, in ritardo, come è venuto in ritardo il mio meraviglioso bambino Ryan, caro, che dopo 18 anni di matrimonio è arrivato. Posso dire la tua opera migliore? Ah, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Che Ryan è qui vicino a noi, sì. Che ti ascolta. Preso con le prese di corrente, che per fortuna sono coperte, perché lui mette il ditino. Un esploratore. Grande. Comunque, anche un'altra bella canzone che a me piace, quello sbagliato, mi piace tanto. Sì. È bello. Allora, gli autori sono Carraresi e Roberto Davini. Loro lavoravano per la ARC, RCA all'incontrario, era una sottomarca, però c'era Rino Gaetano, c'erano tanti artisti, la ARC. E loro erano due autori di punta, Flavio Carraresi era un toscano e anche Roberto Davini, che di faccia era uguale a Jack Palance. Loro, quando fecero questo arrangiamento, si basarono su una canzone come arrangiamento, questa chitarra, di John Loudermilk, un cantante e cantautore americano degli anni 50-60, dove c'era un arpeggio di chitarra e c'era questo dip de de. Ma è bellissimo. Adesso non mi ricordo qual è la canzone, sennò potremmo andarla a pescare. L'uomo sbagliato, no? No, quella di John Loudermilk. Ah, ho capito. E lui e Davini si misero al microfono e fecero dap, da, dam. Mentre anche questo riconoscibile nella lacrima sul viso, io e Marchetti, l'arrangiatore, facemmo che non amo che te ti do ti do ti do bom. E faccio, perché questi effetti c'era poca tecnologia digitale. Occorreva, quindi si andava avanti a bom bom bam. Sì, sì, ma che però rimangono riconoscibili nel tempo, assolutamente. Certo. Si faceva quello che si poteva. Certo, certo, certo. Comunque io ho anche fatto una grande scoperta in questi giorni. E, le tue canzoni cantate in tedesco sono bellissime. Grazie. Ce n'hai qualcuna da trasmettere? O non ne abbiamo? Devo averne messo qualcuna, ma non mi ricordo. Dunque, quella è Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Sì. Mm. Sì, a me piace una che si chiama Du hast ja Tränen in den Augen, che sarebbe la versione tedesca della Casa del Signore. Della Casa del Signore, ho capito. Sì. No, qui devo, non magari credo... i nostri amici tecnici la trovano. Scrive Du hast ja Tränen in den Augen. È un bellissimo gospel. E io ho amato molto fare 10 anni in Germania. È stato un periodo bellissimo, loro anche tecnicamente, come sale di incisione, come effetti, riverberi, erano molto avanti, molto avanti. Decisamente. Bel periodo. E poi ho ascoltato anche una delle tue canzoni di Natale, che dall'album che hai fatto proprio natalizio. Sì. Blue Christmas. No. Blue Christmas, che è dedicata a Eli. È bellissimo. E se ce l'hai qui, la passiamo. Verifichiamo. Tanto si sta avvicinando. Si sta avvicinando. Esattamente. Beh, io non so, proprio perché siamo ancora un pochino lontani, non l'ho messa, ma è bellissima. Proprio... Quando la canzone è bella, è Natale tutto l'anno. È bellissima, è bellissima. Allora, ci fermiamo? Ci fermiamo. Adesso. Ecco, ascoltiamo allora. E adesso che cosa ascoltiamo? In tedesco, abbiamo una versione tedesca di questa canzone. I mezzi nostri sono straordinari. Magari me la fate sentire. Vedi quale potenza ha la nostra radio. Wow. Geniale. Yes. Du hast ja Tränen in den Augen. Ich weiß, die gelten mir allein. Mir sagt das Lächeln deines Mundes, es müssen Freudentränen sein. Lange war ich in der Ferne, es war ein weiter Weg zu mir sagt das Schlagen deines Herzens, du gehörst noch heute zu mir. Und nahm das Geschick dir manchmal den Mut, glaube daran, nun wird alles gut. Die Tränen in den Augen, die will ich niemals wiedersehen. Denn das Lächeln deines Mundes ist ja tausendmal so schön. Das Geschick dir manchmal den Mut, glaube daran, nun wird alles gut. Und die Tränen in den Augen, die will ich niemals wiedersehen. Denn das Lächeln deines Mundes ist ja tausendmal so schön. Ed eccoci di nuovo in studio. Senti Bobby, parlaci un po' delle tue tournée in Giappone. La tournée in Giappone, la prima fu fantastica, ma fu un viaggio lunghissimo, perché non c'era ancora la guerra fredda, e quindi non si poteva attraversare il polo nord, passare sull'Alaska e arrivare in Giappone, sì. Quindi il viaggio durò 34 ore, cambiarono 4 volte l'equipaggio, sì. E fu Roma, Atene, Atene Karachi, Karachi Bombay, Bombay Hong Kong, Hong Kong, no, Atene pure, pure Atene, poi Hong Kong e Tokyo. E la cosa poi buffa era che, siccome la terra gira, e ruotando, all'andata erano tutte colazioni e al ritorno tutte cene. Beh, sì, eri in inversione di fuso orario. Arrivai e veramente non voglio fare il presuntuoso, ma lì ho venduto 4 milioni di dischi della Lacrima. Quindi c'erano 1000 ragazzine giapponesi come i Beatles, e con le loro macchine fotografiche sono rimasto accecato, perché hanno fatto tutti i flash e sono passato davanti a tutte queste ragazzine. E poi sono andato lì, una cosa comica, io avevo detto che avevo fatto un paio di anni di karate, allora mi hanno dato una guardia del corpo dell'imperatore che mi seguiva, e lui faceva, in ogni teatro loro hanno una saletta col tatami, che è il tappeto da judo, e io appena lo toccavo, questo gigante cascava per terra e mi diceva: hai vinto. Poi un giorno, sorridendo, c'era la paratia di 3 mm di ferro antifuoco del teatro, gli ha dato un pugno, sono rimaste le 4 nocche dentro. E questa era una cosa impressionante, straordinaria. E poi quando hanno fatto il cocktail, tutte le persone per festeggiarmi, io ho brindato dicendo cin cin, e tutte le donne scappavano, perché cin cin vuol dire fare l'amore. Ci dice campai. Ci dice campai. Cin cin vuol dire fare l'amore. Ero rimasto da arigatoko, sai, ma in realtà dopo c'è qualcosa. Arigatoko sai mai sta. ma pensa un po'. Ciottomate, aspetta un momento. Ciottomate. Sodeska. Banzai nippon. Oh, ecco, e questa è riconoscibile, diciamo. Cosa vuol dire? Io non l'ho riconosciuto. Viva Giappone. Viva Giappone. Ah, viva Giappone. Banzai. L'impero del sollevante. Allora, gente straordinaria. I cin cin dicono campai. Campai. Siciliano vuol dire io ho vissuto. Hai capito queste cose, queste commistioni linguistiche? Giappone, che sono bellissime. Gente straordinaria. L'ho girato, e come tu parlavi, già nel 64 avevano il treno ad alta velocità Shinkansen 210 sulle rotaie di gomma per non sentire il rumore. C'erano dei giovani alla stazione con i guanti bianchi per pusher, spingere la gente dentro, nel senso che gli spingitori, nel senso di spingitori. Poi nella terza tournée avevo un segretario che si chiamava Suzuki, come motocicletta. E questo Suzuki era giovane, no? Gli è venuta una peritonite acuta durante, stavamo andando al teatro, e io ho detto: Suzuki, andiamo all'ospedale. Dice: no, prima ti devo accompagnare. È cascato per terra stramazzato, poi è arrivato all'ambulanza. Hanno un senso del dovere, del dovere straordinario. Basta vedere Fukushima, sì, e vedere, diciamo, quello che è successo successivamente. Pazzesco. Straordinario, le manifestazioni che hanno fatto, una cosa che è commovente, ecco. Gente straordinaria, io lo trovo. E poi ricordo la cosa che ci divertivamo: le donne lì, almeno allora, le cameriere devono rispettare, se tu ti inchini davanti a loro, loro devono continuare a inchinarsi. Ah. Finché non hai per finito. Cui io mi chinavo 40 volte questo palazzo. Hai non mi so. Che poi non dicono la L, dicono alla R. Sì, sì. Quindi il io contrario. Sono Bobisoro. Bobisoro san. San vuol dire signore. Bobisoro san e Giriora Cinquetti. Giriora Cinquetti. Con la quale hai cantato Romantico Blues. È stato bello, purtroppo siamo stati eliminati. Perché è una gran bella canzone. Comunque, sì, è veramente una bella canzone. Sì. Beh, adesso ti ascoltiamo un'altra canzone. È l'ultimo lavoro del nostro Bobisoro. Sì. Dove ci sente anche. È una poesia dedicata al mio meraviglioso Ryan. Ecco. E ci sono dentro anche le sue. Le prime parole da Gigi. È caro. Va bene, allora ci ascoltiamo una nuova lacrima. All right. Il tempo passa, ci stanca, ancora solo con la mia chitarra. Quante ne ho viste io, Dio, chi lo sa, potrei passare le giornate a dirne la metà. Ancora piango, alla mia età, una nuova lacrima scende già. La prima è scesa 50 anni fa, quel ragazzino di successo è ancora qua. Una nuova lacrima è per te. Un una nuova lacrima è per te, una nuova lacrima è per te. Ogni volta che ti guardo rivedo me, una nuova lacrima mi scalda, perché ogni volta che ti guardo vedo mamma. Lacrime salate, molto care, le dispenso solo a persone rare. Mi guardo attorno, tutto male, andiamo a fondo e tutto cade. Futuro incerto, insicuro, chiaro è solo dove andiamo, ma resta un chiaro scuro. Ci hanno sporcato i sogni, smantellato ogni possibilità. Così oggi sono giorni di precarietà, ed ogni guerra ha la sua crudeltà. Ma tu che verrai, non temere, anche se sarai così piccolo, con me non correrai nessun pericolo. Una lacrima verrà quando mi chiamerai papà, mentre ti aspetto metto un disco che fa. Una nuova lacrima è per te, una nuova lacrima è per te. Ogni volta che ti guardo rivedo me, una nuova lacrima mi scalda, perché ogni volta che ti guardo vedo mamma. Vedo mamma. Dopo tanto, tanti mesi sono diventati anni, ho imparato a superare e a sopportare gli affanni. E poi ho capito un'altra cosa, passeranno i tempi duri e ne avrò solo memoria. C'è chi sa ancora sperare, chi sa ancora sognare Memphis con i capelli come Elvis Presley. Chi non si arrende mai, chi segue il cuore non cade mai. Ed è stupendo. Ancora mi stupisco, risuona un vecchio disco. Una nuova lacrima è per te, una nuova lacrima è per te. Ogni volta che ti guardo rivedo me, una nuova lacrima mi scalda, perché ogni volta che ti guardo vedo mamma. Una nuova lacrima è per te, una nuova lacrima è per te. Ogni volta che ti guardo io rivedo me, una nuova lacrima mi scalda, perché ogni volta che ti guardo vedo mamma, vedo mamma. Eccoci di nuovo in studio per un'altra tranche di ricordi straordinari del nostro ospite Bobby. Sei stato anche presumibilmente nel sud del mondo? Assolutamente, ecco. Ho girato tutto il Sud America, Venezuela, Brasile, Bolivia, Perù. Ma il posto dove ho trovato più italiani è la bellissima Argentina, da cui proviene il nostro meraviglioso Papa Francesco. E lì ho fatto 9 tournée in Argentina. Ho girato Cordoba, Rosario, Villa Esel, Bariloche, Cordoba. Ricordi di italiani veramente ospitalissimi. Loro, gli italiani vengono chiamati Thanos. Thanos. Ma credo che siano dire, almeno la metà della popolazione. Per dire come stai, che tal? Che e tal? Loro, ecco, sì. Io ho sempre dei ricordi anche gastronomici, perché ero giovane affamato. L'assado. E l'insalata con la maionese fatta fresca, non quella in scatola. Mm-hmm. E bellissimo pubblico. Caloroso, meraviglioso. Ma penso sì che siano calorosi loro. Sì. E penso che anche forse il nostro Papa, quando era più giovane, nel 64, avrà ascoltato La lacrima sul viso. Decisamente, chi lo sa? È un melomane in effetti. Sì, è un melomane. Se gli piace la musica. Molto. L'Argentina è un bellissimo periodo. Esatto, stavo pensando che l'affetto appunto per le nostre canzoni, per i nostri cantanti eccetera, è inversamente proporzionale, come dire, è ingigantisce con la distanza. Ah sì, sicuro. Più si è lontani, sicuro. Più infatti, si ha infatti quando io andavo via, sia al Nord America che al Sud America, salutaci l'Italia. Straordinario. Perché il nostro paese ha avuto queste traversie economiche, esatto, per cui loro sono dovuti emigrare. Certo. Però... perché vogliamo essere nazionalisti, ma io ho girato tutto il mondo, ma un paese più bello del nostro non c'è. Nella sua varietà effettivamente di paesaggio, di natura, E di persone. E anche di cibo, perché di cibo, sì. Dalla pizza alla mozzarella, alla caprese, al ragù, sono cose che non esistono in nessuna parte del mondo. Certo, tutta certo. Questa varietà. Quindi, infatti, quando vengono gli stranieri mangiano molto. Quindi ben nove, quindi dicevi nove volte. Quindi un caleidoscopio di colori, di emozioni, di cose straordinarie. Assolutamente, poi anche il Venezuela era abbastanza forte, un esatto. Paese... A me attira la Sud America. Caracas. Tanto. Sud America è un altro. Mi ricordo a Caracas ci sono delle rane di notte che fischiano. Pure. E allora tu stai nel giardino dell'albergo e si sentiva... Ah, così fa. Dico, questo è un uccellettino. Sono delle rane che fischiano. Rane che fischiano. Però ci sono delle bestie. C'era un povero ingegnere italiano che era andato lì per i pozzi di petrolio, dormendo nella foresta della giungla Maracaibo. C'è una mosca che ha un becco lungo e ti ha messo nel midollo spinale le uova. È rimasto paralizzato. Mamma mia. Ne ha mangiato, sono nutrite del midollo. Sono delle bestie. Un po' come un film dell'orrore. In quelle giungle c'è di tutto. Io ho terrore di quelle bestie, mamma mia. Anche io, per quello ho fatto il Maton Sing. Ah, ho capito perché... C'è sempre un richiamo di tutte queste cose. Ti piace questa... Diciamo, è stato un successo. Esatto. Partendo invece, chiedo scusa se interrompisco, invece da Sud America per arrivare al Nord America, certo. Mi pare che ci siamo con San Francisco, o sbaglio? Sono stato a San Francisco due volte e canta, me lo ricordo per l'acido lattico nelle gambe, perché sono tutte sali e scendi, e ricordo, sempre parlando di mangiare, dicevo, ma questo è un maniaco, come Aldo Fabrizi, ricordo che ho mangiato uno spaghetto proprio con le vongole, veraci, al Fisherman Dwarf. C'era un romano, un originario di Roma, che aveva un ristorante. Questo Fisherman Dwarf è il porto di San Francisco. Di San Francisco. Città di musica, di artisti, sì, di intellettuali. Canti anche la canzone. Golden Gate. Esatto. Poi molti intellettuali, anche la Beat Generation, Ginsburg. Esatto. E naturalmente la Silicon Valley, vicino, nella zona, eccetera, eccetera. Veramente forte. Ho sentito anche delle canzoni in lingua francese, anche per esempio Una lacrima sul viso è stata tradotta in francese. Non anche, solo, ma anche ne ha venduto un milione quel birichino di Lucky Blondeau. Era un cantante della mia età. Lucky Blondone ha venduto 1 milione di copie lui in francese. Nel frattempo direi che potremmo ascoltare ad una canzone che il nostro ospite gradisce molto. Sì, perché Tony Joe White è un cantante che ha composto due pezzi per Elvis e due per Tina Turner. L'ho conosciuto al Festival del Jazz di Mendrisio a Lugano ed è un mio idolo. E io gli ho dedicato questa canzone, che è la sua lacrima sul viso, di Tony Joe White, che si chiama A Rainy Night in Georgia. Che ci ascoltiamo. Ci ascoltiamo. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain a falling, seems I hear your voice calling. It's all right. A rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia. It seems like it's raining all over the world. The world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. Distant moaning of a tree seems to play a sad refrain to the night. A rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining. I feel like it's raining all over the world. times I wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it, think of it, it's life and you just got to play the game. Ecco qua di nuovo in studio con il nostro ospite, al quale vorremmo così far notare che dopo molti anni è ritornato nel nord-est da dove era partito. È vero, come le rondini tornano al nido, così io ho sentito il piacere e il desiderio, anche grazie a mia moglie che è americana, ma ha passato tanto tempo qui nel Friuli con i genitori alla base di Aviano. Immaginavo. È stato per me un piacere, mi trovo molto molto bene, molto bene nel nord-est. A livello di amicizia e discrezione delle persone, di educazione e di una buona qualità di vita. A proposito di amicizia, non possiamo fare a meno di ricordare un amico che al nord-est è stato molto legato, essendo anche cittadino onorario di Montebelluna, e che hai conosciuto decisamente molto in Toni. Sì, appunto. Amico, io ero quasi il quarto fratello, perché ci conosciamo dal 64. Ecco, alla Vita in Diretta qualche giorno fa si parlava di amicizia, sì. E allora uno dei servizi che è uscito praticamente era proprio il vostro, sì. Emblematico di un'amicizia straordinaria. Mi ha fatto tanto piacere quando ancora non stava proprio tanto male, quando lui disse a Dominica In che dopo Minoritano il più migliore amico che c'aveva ero io. E ne sono rimasto orgoglioso. E abbiamo vissuto tante tante cose fuori dalla Avete scena. Avete cantato insieme? Abbiamo vissuto insieme. Sulla scena e fuori dalla scena. Tantissime avventure, aneddoti, barzellette che magari in una seconda puntata potremo ricordare. Certo, certo. Non osavamo sperare, ma visto che l'hai detto, sei committed, come dicono gli americani. Magari l'avremmo chiesto, non ti preoccupare. È un bel modo di comunicare con la gente. Sì, esatto, perché diciamo che queste amicizie, eccetera, che sono vere amicizie e durature, anche perché non è facile nel mondo dello spettacolo, ritengo io. La nostra amicizia, penso che l'amicizia è una grande cosa come l'amore, ma credo che c'entri sempre avere delle cose in comune. Esattamente. Cioè due amici possono avere in comune il gioco del calcio, possono avere in comune la musica. Noi avevamo in comune Elvis. Anche a lui piaceva Elvis. Orca miseria. Non si cresce mai. Abbiamo inciso male. Insieme Non si cresce mai, perché il grande Bigazzi, con quale ho avuto il piacere dopo Mogol di vedere la grande bravura di Bigazzi. Ha disegnato questa canzone perché noi avevamo già i nostri annetti, però abbiamo sempre nel nostro cuore lo spirito giovanile, d'avventura di un ragazzino. Ecco, è un frammento per ricordare i Robot. Ah, il Robot, sì, bellissimo periodo con Rosanna Fratello, vissuto a Canale 5 con Rosanna Fratello. Noi eravamo in una trasmissione pioniera, perché la fascia mattutina Canale 5 non l'aveva esplorata mai. Noi siamo stati pionieri, sì, con la trasmissione tutti i giorni, cantando, dalle 11:30 a mezzogiorno, l'ora di pranzo. Quindi tutte le massaie italiane ci guardavano. Beh, immagino. Quelle che non guardavano. Naturalmente, noi più ancora di altre trasmissioni, qui è volato il tempo. Mamma letteralmente. Mia. Siamo arrivati al traguardo. Quando è così piacevole, quando è così fluida la trasmissione, eccetera, si ha solo un rimpianto, quello di non poter fare 2, 3, 4 ore di anche trasmissione. Anche per me è stato bellissimo. Ma noi contiamo su una visita successiva. Beh, certo. Io qui lo dico e qui lo confermo. Quando volete, comunque, non abbiate problemi. Comunque sono stati deliziati. Ecco, e spero. Io sono felice, spero, se posso dare qualcosa di buono agli altri. Beh, hai dato veramente qualcosa di meraviglioso. Fantastico. Ecco, allora ti ringraziamo non tanto. Non ci resta che ringraziarti sentitamente. Grazie per la tua presenza. Grazie a voi per le domande che mi hanno permesso di ritornare nella mia memoria. Voi avete agito come degli psicanalisti. Mi avete fatto rigredire nella mia memoria. Ci abbiamo fatto ci tornare. Ci gratifica ulteriormente. Perché io guardo sempre avanti, non riesco mai a girarmi. Questo è importante. Sì. Bravo, hai il torcicollo, se no. Ho paura di vedere qualcuno che mi vuole picchiare. Bene, allora ciao Antonio, grazie. Grazie, grazie anche a te, grazie delle emozioni che ci ha dato il nostro ospite. Grazie naturalmente. E a tutti i nostri ascoltatori, come sempre, un saluto affettuoso e ciao ciao.